Con Clinique ti aspetta un'estate di meraviglie. Scopri il maxi telomare eco-friendly, tuo acquistando 79 euro di prodotti. E per una routine completa, scegli il set delle meraviglie. 6 prodotti in full size a un prezzo imperdibile. La tua estate con Clinique. Nelle profumerie e sui siti aderenti. Regolamento disponibile su clinicitaly.it. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questa nuova puntata di Quando eravamo futuro. Siamo finalmente tornati, ma siamo tornati per andarcene, quindi insomma state tranquilli che è una cosa breve. In realtà abbiamo abbiamo fatto una piccola pausa per motivi annessi e connessi, anche insomma un po' una sorta di ritorno alla vita pseudo normale, ma soprattutto per vari impegni e in particolare questo bellissimo programma che stiamo facendo proprio in occasione di Euro 2020, che è Eurocalcio 2021, che sta riscuotendo molto successo e che ci è costato insomma impegno e sacrificio nell'organizzazione, la pianificazione di tutto quello che è un po' gli assets, insomma la scaletta, il palinsesto, il ritmo, non è una cosa così buttata tanto per. Con questo insomma abbiamo preso l'occasione per tornare con questa puntata che sarà la puntata, il finale di stagione, ecco quello che viene utilizzato come termine nelle serie televisive, finale di stagione, con il quale chiudiamo questa stagione e poi a fine agosto, inizio settembre, con calma ripartiremo con la seconda stagione. Tra l'altro, Quando eravamo futuro, pur essendo un neo podcast, alla fine 13 puntate, tutto sommato non è una cosa da poco. Comunque, Davide Gatti, buonasera, da un po' che non ci si vede. Io sono in un momento lavorativo molto preso, ma sono volentieri qui con voi stasera, così per cambiare un po' d'aria. E poi comunque, vabbè, a parte i saluti, volevo sempre ricordarvi che è iniziata la stagione di Survival, l'ottava stagione di Survival Hacking. Volevo dirlo lo scorso giovedì che iniziava, ma non abbiamo fatto la puntata, lo dico adesso che è già iniziata, ma proseguirà. Quindi ho fatto un saluto più annuncio. E infatti l'abbiamo sentito lo spot su Runtime Radio, noi che ascoltiamo tutti i giorni Runtime Radio. Carlo Sant'Agostino. Eccoci qua, ciao a tutti. Ovviamente il buon Davide Gatti dice che c'è un sacco di lavoro sempre preso, e ovvio faccio 187 milioni di puntate, poi non ci vediamo da un po', tutti i giorni esci con 60 puntate di Survival Hacking e video e cose. Ma lui adesso comincia a guadagnare i dinè, attenzione, sono usciti fuori i dinè, attenzione, fra un po' ce lo giochiamo, diventa una star, neanche più parteciperà ai nostri podcast. Bravo. Ciao a tutti, comunque io ci sono, bravo, meno male che ci sei, perché come faremmo senza di te? Ho appena passato due giorni in fiera, sabato e domenica, sono qua col mal di schiena, ma ci sono. Più l'altra settimana. Vabbè, poi ne parliamo al volo. Anzi, magari ne parliamo al volo nelle apposite sedi. E Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti, grazie. Quindi hai spostato anche il mio computer, Carlo, fammi capire. Sì, il tuo pesantissimo computer di metallo fuso. Di metallo vivo, quello là. Esatto. Stroganga, grande. Sentite ragazzi, allora abbiamo detto fine di stagione per tornare a settembre, anche perché come avrete notato dagli annunci che stiamo facendo, stiamo chiudendo tutta una serie di programmi, chiaramente, che sono soprattutto quelli live, perché fare le live la sera con sto caldo è veramente difficile, anche perché negli studi non sempre teniamo l'aria condizionata accesa per ovvie ragioni tecniche, insomma, diciamo così, però insomma è anche giusto che dopo questa grande stagione che abbiamo portato avanti, insomma è giusto che ci prendiamo anche un meritato riposo dal quale le nostre orecchie si dovranno abituare al fatto di non sentire Davide Gatti che butta le cose sulle scrivanie così a caso mentre che fa le trasmissioni e poi dice no, io non ho fatto niente. Mi state anche vedendo, non ho fatto niente, cacchio. Allora è Roberto Tomaiuolo o è Carlo Sant'Agostino? Comunque, detto questo, ragazzi, volevo un pensiero vostro, visto che lo abbiamo fatto tutti durante questa settimana. attentamente i monumenti. La classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Beh, insomma, ragazzi, io ho già espresso in due trasmissioni, però insomma ci ha salutato con questo modo un po' discreto Raffaella Carrà. Volevo sentire insomma anche magari le vostre, che magari avete, l'avete vissuta in un modo diverso uno dall'altro, insomma sarebbe carino. Carlo, iniziamo da te. Io innanzitutto sono stato quello che ne ha annunciato la morte, ecco. Quindi sei un menagramo, tu porti la morte, quindi no. Quando l'ho detto tu non ci credevi, ma hai scritto, ma è la solita bufa. No, perché erano diversi anni che ogni tanto usciva lei e l'altra, l'attrice, quella che lavorava sempre con Alberto Sordi, come si chiamava? Monica Vitti. Monica Vitti. Monica Vitti è morta, Raffaella Carrà è morta, e allora ogni tanto... Quindi quando l'ho scritto tu hai detto, ma è la solita bufa? Infatti, di quelli io ho detto, no, perché... Poi perché in realtà mi dispiaceva, ovviamente, no, al di là di tutto. Certo, insomma. No, beh, al di là di tutto è un'icona fondamentale della nostra italianità e della nostra vita, perché chi non ha mai visto Raffaella Carrà, sentito, eccetera, eccetera. Io tra le mille cose, beh, io ovviamente me la ricordo soprattutto da piccolo, nelle trasmissioni televisive di quando ero bambino barra ragazzo, poi da grande non è che la seguissi particolarmente, devo dire, però nelle celebrazioni, ecco, c'è stata una cosa che mi ha fatto divertire, tra virgolette, comunque stupire, il fatto che non mi fossi mai soffermato sul significato di un testo in particolare di una canzone da Carrà, la canzone più famosa della Carrà, che è Rumore, no? Sì. Infatti volevo mettere quella, però vabbè, ultimamente, diciamo, cioè di una di quelle ultime più famose. Cosa stavi dicendo, scusa Simone? Infatti. No, dico, infatti volevo mettere quella, poi ho detto vabbè, questa forse è un po' più adeguata, ecco. Magari. Comunque Rumore. Io mi sono stupito perché alla radio, quando l'hanno messa, hanno spiegato anche il significato del testo. E io vorrei sapere, per esempio, se qua uno di voi sa il significato del testo della canzone Rumore. No, non fare domande a trabocchetto, ce lo dici e fai la tua. No, era giusto per avere la conferma, perché io non lo sapevo. È vero che non mi ero mai posto la domanda, ma ascoltandola non avevo mai capito di cosa parlasse. Praticamente la canzone parla di una ragazza che decide di vivere da sola, quindi lascia il marito fidanzato e va a vivere da sola, e di notte sente nella sua stanza mentre sta dormendo un rumore, e questo rumore gli fa paura e dice mi fa paura il rumore, che non so che cos'è, e vorrei di nuovo avere qui il marito, ragazzo, eccetera, per poterlo abbracciare, così almeno mi passava la paura del rumore. Ecco, questa era una cosa che io non avevo mai, giuro, capito ascoltando la canzone. Adesso riascoltandola capisco il testo, quindi questa è una cosa insomma che mi ha divertito parecchio nei giorni scorsi. Ecco, un aneddoto interessante. Che poi questa canzone, Pedro, in realtà è proprio la caccia alla milf antilitteram, cioè nel senso, cioè se tu senti la storia della canzone, cioè lei va in giro per la città, arriva sto ragazzino, gli fa, ti faccio fare la guida, quello l'altro ti fa la guida, quello ci voleva provare, sto zozzone. Davide. Allora io con Raffaella Carrà ho un rapporto un po', magari un po' diverso da quello che potreste aver avuto voi o che tutti voi. Io non la seguivo né quando ero piccolo, né quando ero medio, né quando ero grande. Io non proprio la schifavi. Sì, non era per me una cosa interessante. È ovviamente un personaggio famoso, popolarissimo, che conosco benissimo e che tutte le volte, ecco, per esempio mi ricordo che invece avevo guardato la trasmissione le prime volte, Caramba che sorpresa, che erano molto belle, poi dopo pian piano sono stancato, però non la guardavo neanche più di tanto. Recentemente invece, proprio prima ancora, e stava anche girando una seconda serie, stava facendo tutta una serie di interviste molto belle, una trasmissione che adesso non ricordo come si chiama, comunque intervistava dei personaggi, andava a casa loro, li intervistava, era carino. e stava programmando la seconda stagione, ma per colpa del Covid si è dovuta fermare e poi è andata come è andata e la seconda stagione ciao. E però diciamo non l'ho mai seguita più di tanto, non ho neanche avuto questo gran trauma nel sapere appunto della situazione, però è chiaro, se n'è andata una persona che probabilmente era una delle più popolari attualmente in circolazione. E niente, dai. Ok, ok, Roberto. Guarda, anch'io ho i ricordi principali di Raffaella Carrà, diciamo da bambino, quindi con i vari programmi, non mi ricordo, credo abbia fatto alcuni Fantastico, forse con alcune cose con Corrado, Gigi Sabani, queste persone qui. E sinceramente è un ricordo di una persona piacevole, molto attiva, molto energica. Ho assai meno ricordi, diciamo, della sua seconda carriera, se vogliamo chiamarla così, quella ad esempio con Buon Compagni e cose del genere, perché non era il tipo di trasmissioni che seguivo. Devo dire una cosa, ritengo che sia stata senz'altro una personalità assai innovativa e anche coraggiosa, tutte cose che però ho scoperto molto avanti, cioè sinceramente all'epoca non ci avevo mai fatto caso a nulla di tutto questo. E invece poi col tempo e anche adesso, insomma, ripensandoci, dobbiamo vedere quanto abbia avuto coraggio e abbia appunto innovato certe cose nella televisione italiana, che perlomeno fino a un certo punto degli anni 70 era assai bacchettona e ingessata. Poi senz'altro con il suo aiuto anche di altri è un po' cambiata. Quindi questo è il mio ricordo. Spiace quando queste persone scompaiono, anche perché cominci a sentirti un po' vecchio, un po' vecchio. Cominci a sentire il tempo che incombe. Esatto. Ma in realtà, come ho detto già, a me affascinava sempre il fatto, poi vabbè, alcune cose si scoprono poi ovviamente dopo, ma una ragazza di 25 anni che negli anni 80 era già pienamente consapevole delle sue potenzialità e come ha usato anche se stessa, no? Anche l'immagine di se stessa, in maniera a volte sensuale ma garbata. E poi una persona che negli anni 80 parlava correntemente tre lingue, onestamente non era in Italia un caso così così da poco, insomma, considerando, era rarissimo, insomma, è raro ancora adesso. Infatti è bellissima l'intervista quella a David Letterman Show, che comunque lei se stava lì se l'è proprio gestita. Che anno sarà stato secondo voi? Erano anni 80. Sì, perché comunque lui aveva già intervistato Maurizio Costanzo, infatti Maurizio Costanzo ovviamente c'era l'interprete, sì, insomma. Era fantascienza davvero, quando l'ho visto ho detto che questo è fantascienza, perché sarà stato l'82, l'83, sì, se la cavava alla grande. Complimenti, chapeau davvero. Chapeau. Va bene ragazzi, iniziamo un po' con quest'ultimo episodio di stagione, naturalmente. Un episodio che abbiamo intitolato I ricordi di Celluloid. Anche perché in questo episodio noi cercheremo di fare un brevissimo excursus, molto breve, su quello che è stato un po' un cammino, diciamo, e poi cercando poi di soffermarci su alcuni elementi. Perché una cosa è sicura, e qui non so se siete d'accordo con me, ma l'esigenza di memorizzare, di immortalare i momenti della nostra vita in generale, che siano ad ampio respiro, siano particolarmente riservati, magari personali, è una cosa che ha sempre fatto parte della storia dell'uomo, insomma, no? Quindi già per immagini e in qualsiasi altro modo. E però, voglio dire, questa cosa, se è cambiata nelle generazioni, nelle varie evoluzioni, più che è cambiato il fatto in sé, è cambiata magari la quantità, no? Delle cose che noi riusciamo o che riusciamo a immortalare e che poi di conseguenza immortaliamo, e anche gli strumenti con i quali li facciamo, insomma, perché se noi andiamo a pensare, no? A inizio 800 comunque c'erano i quadri di famiglia, no? Cioè c'era questa cosa, magari quadri non solo imballati, no? Quelli classici, insomma, ma magari scene di famiglia che venivano comunque immortalati magari dal pittore, no? Che comunque in qualche maniera, anche le prime fotografie, no? Quindi le fotografie che erano sempre una cosa un po' complicata, no? Perché sapete che tecnicamente la prima fotografia avevano bisogno, insomma, dei propri tempi, insomma, e venivano fatti con degli strumenti molto più arcaici, ma noi ovviamente ci soffermeremo un po' su quello che è il nostro percorso, è quello degli anni 70 e 80, che negli anni 70-80, anche diciamo affacciandosi negli anni 90, noi abbiamo visto diverse rivoluzioni, diverse trasformazioni che sono state significative, anche perché anche in questo caso, come in tanti altri casi che abbiamo visto, c'è stata poi un'accelerazione, no? Quindi abbiamo visto veramente la trasformazione fra un'era e un'altra era anche in questo caso, perché noi all'epoca avevamo a che fare con le pellicole, c'è stato negli anni 70, in particolare negli anni 80, quando la pellicola è diventata tra virgolette economica, nel senso la pellicola era poi lo strumento sul quale, sia dal punto di vista fotografico che cinematografico tra virgolette, veniva utilizzato per immortalare le cose, quindi la pellicola è diventata a un certo punto economica. Poi qui ci soffermiamo su questa cosa dell'economico, perché poi è comunque abbastanza particolare. La pellicola a colori, che ha cominciato ad avere una distribuzione di massa, ricordate il per esempio, se proprio vogliamo fare un esempio, ricordiamoci l'attentato di Kennedy, no? Il famoso film del tizio lì che l'aveva fatto, sì, insomma, Zapruder. Bravo, esatto, no, adesso non mi veniva, che era già a colori, però quelle pellicole, sì, a colori in Italia in particolare sono arrivate. Beh, ecco, c'è una cosa da dire che ho detto spesso: noi in quegli anni eravamo, cioè tutto il mondo era più lento, e gli Stati Uniti soprattutto negli anni 50 erano tipo 10 anni avanti, no, anzi di più, quasi 15 anni avanti a noi. Negli anni 60 erano 10 anni avanti, negli anni 70 5 anni avanti, negli anni 80 li abbiamo quasi raggiunti, sì, però sì, se sì, noi facciamo questo percorso, loro avevano la TV a colori, le pellicole a colori, le, sì, cose, sì, a colori già negli anni, a fine degli anni 50, sì, inizio anni 60, sì, noi, sì, ciao, cioè, diciamo anni, che negli anni 70 la pellicola a colori c'era anche da noi, ma a un costo, sì, ancora non accessibile, no? E comunque 15 anni in ritardo rispetto a quello che era comunque la distribuzione, no? Però io ricordo, insomma, che ad esempio il film del matrimonio di mio padre era rigorosamente in bianco e nero, ma già alcune cose, quando siamo nati io e mio fratello, erano già a colori, no? Colori. Però quindi io ho un filmato credo in quarta o in quinta elementare mio, in gita a Venezia, ed è a colori. Esatto. E deve essere il 78 79, quegli anni lì. E poi c'è stato il passaggio dal chimico al magnetico, in particolare, non solo, però in particolare per il video e l'audio. Questo poi, certo, sono temi, certo, che affronteremo magari in altra sede, insomma, dove ovviamente parleremo anche di questo tipo di aspetti. E diciamo che poi noi da questo escludiamo poi tutti i prototipi tecnologici possibili e immaginabili, perché ad esempio ci sono state le macchinette fotografiche col floppy disk dentro, ad esempio, se proprio vogliamo. La Mavica della Sony, l'ho usata. Esatto. Sì, anch'io. Quindi, insomma, diciamo che E prima ancora c'era la Casio con i floppy da 2 pollici che non erano digitali, ma erano analogici, una roba un po' strana. Un po' strana, una roba. Certo. Si registrava segnale video PAL analogico sul dischetto. Ecco, allora, di questo passaggio, di questa grande rivoluzione, ovviamente noi ci focalizzeremo su quello, su tutto l'aspetto che è prettamente analogico, ma in particolare chimico. Quindi non entreremo nell'aspetto video, cioè quando sono arrivate le videocamere, diciamo, consumer, quindi tutto quell'aspetto, insomma, che poi ha un po' cambiato anche lì un po' la questione, ma parleremo prevalentemente del mondo legato alla pellicola, fondamentalmente, sia in aspetto fotografico che in aspetto cinematografico. Partendo da qua, voi che tipo di ricordi avete? Poi dopo andiamo avanti con il percorso. Da chi iniziamo? Dai, parliamo da te, dai. Vabbè, io ovviamente un sacco di ricordi legati soprattutto, allora, per quanto riguarda la pellicola, tutti gli anni 70, ovviamente, perché negli anni 70 esisteva solo quella, quindi quando ero molto piccolo, a livello di video, ecco. Già negli anni 80 il video era diventato magnetico, quindi con le VHS, video 8, VHSC, eccetera. Già, diciamo, verso la metà degli anni 80, ma già quasi io mi ricordo che la mia prima videocamera magnetica, quindi con le videocassette, siamo agli inizi della, del liceo, quindi stiamo parlando dell'85, 84, 84, 85, quindi già era molto presto. E mi ricordo che anche prima c'erano altri che l'avevano, quindi in realtà le videocassette magnetiche sono arrivate già all'inizio degli anni 80, mentre il video 8, quindi quello a pellicola, me lo ricordo negli anni 70, come ho detto ero in quinta. No, aspetta, non facciamo confusione, il video 8 è una cosa, l'8 mm, il super 8 è un'altra cosa. Super 8 è pellicola, okay. Video 8 è magnetico, esatto, hai ragione, quindi si confonde facilmente. Noi rimaniamo nell'ambito pellicola, diciamo, insomma, la pellicola sono andate avanti tantissimi anni con le fotografie, quello perché prima che diventassero magnetico digitali stavamo passando degli anni 90 inoltrati ormai. Le sperimentazioni, come hai detto tu, la Mavica, ma erano già gli anni 90. E invece per tutti gli anni, sia le foto che le fotografie diapositive, che sono sempre foto, erano fatte in pellicola. La cosa che mi ricordo è che mi regalarono la Polaroid come regalo della cresima, la mitica Polaroid 1000, quella sì, bianca davanti, la classica, sì, no? Sì, quella con le tre fiscette. Però adesso c'è molto ritorno in voga di questa storia delle Polaroid, vedo che vanno di moda, le riprendono eccetera, rifanno la Polaroid con la pellicola. Però io mi ricordo che le Polaroid sì, ebbero un discreto successo perché sviluppavi subito, no? Tu facevi la foto e usciva la foto già sviluppata, dovevi asciugarla quei 2 minuti e ti ritrovi la foto. Però la qualità della Polaroid era orrenda, cioè ricordiamocelo, veramente orribile, almeno nei miei ricordi una Polaroid è sì, una foto bruttissima. Sì, diciamo non solo la Polaroid in generale, diciamo. Beh, a parte la pellicola 35 mm della macchinetta fotografica, diciamo. Vabbè, in generale, se prendevi la macchinetta fotografica normale ci mettevi dentro una ISO 100 200 sì, 300, sì, 400, era un po' meglio, sì, veniva sì, un'altra roba le sì, foto sì. E infatti poi nella mia gioventù ricordo che alla fine tutti noi, almeno nei miei ricordi, io e i miei amici, c'era quando si andava in vacanza, quando si dovevano fare le foto, si usavano molto di più le usa e getta, cioè quelle macchine fotografiche già comprese di pellicola e non le Polaroid. Usavi le usa e getta e poi sì, le facevi sviluppare le Polaroid, certo. C'è stato il grande momento di quel tipo di prodotto. C'è Ruggio, giustamente ci dice in chat che le cineprese 8 mm c'erano già negli anni 60 e anche le pellicole a colori, perché lui ha dei filmati 65-69 con delle 8 mm a colori. Sì, io non ho detto che non ci stavano, è che ora che questo tipo di pellicole sono diventate abbordabili, diciamo, diventano uno standard, devono arrivare oltre la metà degli anni 70, insomma, perché prima erano comunque costose, c'era comunque la differenza. Anche quando tu andavi a comprare le pellicole dal pellicolaro, diciamo, lui te lo chiedeva ancora, proprio quando ero ragazzino io, ancora te lo chiedeva se volevi quella a colori o quella in bianco e nero, e c'erano delle sostanziali differenze di prezzo su queste tipo di cartucce. Poi ci arriviamo un attimo anche a come funzionava sta cosa. Comunque, volevo sentire anche gli altri, Roberto. Allora, io ho un rapporto un po' particolare con sia la fotografia che la ripresa video. Mi riferisco chiaramente a quelle fatte da me, non in generale alla disciplina. Nel senso che non le ho mai amate tantissimo, non ho mai amato tantissimo fare fotografie o riprese. In particolare non amo affatto essere fotografato, infatti io ho pochissime fotografie di me stesso, quelle che i miei genitori o qualche fidanzata per forza di nascosto mi hanno fatto, però essendo un enorme accumulatore di cose, di informazioni, una cosa ossessiva compulsiva probabilmente, ho anche avuto dei periodi in cui mi sono sforzato, insomma, di fare anche questo, quindi di usare la macchina fotografica che l'ho comprata, la Reflex, era credo una Canon EOS, una delle prime, e mi ci sono messo, e lo stesso per quanto riguarda la cinepresa, però siamo già all'inizio degli anni 90, tanto per capirci. Sì, sì. E come molte cose nella mia vita, alla fine mi ci metto tantissimo per un tot di mesi, poi le metto via e non le prendo più. Per cui come fruitore diretto di queste cose lo sono abbastanza poco. Non ho mai avuto la famosa Polaroid, l'ho vista, l'ho anche usata, come, è un fantastico oggetto. Ricordo comunque la sorpresa di vedere questa fotografia che usciva direttamente dalla macchina e tu in un minuto, due minuti, insomma, la potevi avere. Era un'invenzione, è stata un'invenzione davvero geniale. Però ti ripeto, ho senz'altro questo rapporto un po' conflittuale con questa forma, e che non me lo so spiegare, insomma, fino in fondo. No, vabbè, non è che poi la mia era sempre stata una passione viscerale da quando ero ragazzino, a prescindere dal fatto se mi piaceva o non mi piaceva essere immortalato, e non questo non voleva dire che doveva essere per tutti chiaramente così. Davide? Allora, io dunque anch'io come Roberto ho avuto un rapporto un po' non di fortissimo interesse per questa cosa, anche perché devo dire che quando ero piccolo... tu sei l'uomo con l'archivio fotografico più grosso io conosca nella storia. Quella è un'altra cosa curiosa, però in realtà io quando ero piccolo ricordo molto che la macchina fotografica era una cosa che doveva usare il papà e basta, è una cosa che io non potevo toccare, non potevo guardare. Beh, certo, c'era una ragione anche per questo, però. Sì, perché costava probabilmente un sacco di soldi. Esatto. E quindi mi sarebbe piaciuto, no, magari toccare, fare, ma non era vietato. Le foto le faceva solo mio padre, così. Non era neanche lui un grande espertone, no? Però mi raccontava, e lì c'erano i racconti, come hai iniziato tu a dire prima, parlando di anni 60, di anni 50 anche, facciamo anni 50, anni 40, dove per fare una fotografia bisognava chiamare il fotografo che arrivava, si metteva lì due ore, alla fine tutta la famiglia si posizionava, questo tirava fuori il suo armamentario, trick track foto, poi tra un mese arriva, c'è proprio una roba, un parto. E con questa memoria mia madre mi diceva sempre: cacchio, le fotografie sono, per lei sono sempre state quelle cose che erano delle cose molto costose, complesse, un casino la fotografia. Quando sono arrivate poi queste macchine fotografiche molto facili da usare, comunque sembrava che si stesse parlando di oro, di cose. Quindi ho avuto sempre questa impressione da piccolo che era una roba che non era per me, cioè dovevo starci lontano perché costava un sacco di soldi, non lo so, me l'hanno fatta passare. Poi tu smontavi tutto, quindi. Sì, a parte che avrei curiosato, però era vietato. Poi chiaramente è arrivato un periodo, ho fatto in tempo a vivere ovviamente un periodo in cui anch'io ho utilizzato per molto tempo la pellicola, ma solo per fare fotografie. Per esempio il video era una cosa che non avevo questo forte interesse, e ho avuto anche forse la sfortuna di non avere neanche degli amici o dei parenti o mio padre o chiunque che fosse interessato, e a questo punto io avrei magari visto come funzionava, mi interessava. Non ho nessuno intorno a me, è stata una cosa che è passata così. Però alla fine poi anch'io con la fotografia, io sono un triste fotografo con macchine automatiche, con scatto come viene e vediamo come si vede. Come forse vi ho già raccontato in un altro episodio, c'era sempre quel mistero, sai, tu fai le foto e poi quando le vai a far sviluppare vedi che cosa è venuto fuori e c'hai la sorpresa, no? Sì, cioè, a volte veramente la sorpresa. Lasciamo stare le cose fatte tra amici. Vero, amici miei che fanno. Non vi dico al mio matrimonio quando ho sviluppato i rullini, ovviamente. Vabbè, mo ce lo racconti, perché poi dopo li vogliamo gli aneddoti, perché insomma alla fine comunque al di là di tutto scusa, un aneddoto tra tutti, sai, fare un viaggio di una giornata, scattare foto e poi scoprire di non aver messo dentro un rullino. Quello purtroppo. Qual era la tragedia? Sì, sì. Quello purtroppo non era così inconsueto. Anche il discorso del tappo davanti all'obiettivo. Davanti all'obiettivo, sì, perché molte. Vabbè, questo magari sì, possiamo pure raccontarlo, però diciamo che, ma questo oggi non succede quasi più, anche se ci sono ancora delle macchinette fotografiche che stanno ripercorrendo un po', perché c'è questo revival anche stilistico, no? Sì, diciamo che una volta la macchinetta, se non era una reflex, aveva l'occhio, cioè il 90% delle macchine fotografiche, esatto, aveva l'occhiolino da una parte e l'obiettivo al centro, e l'occhiolino non era allineato con l'obiettivo. Esatto, quindi questo, diciamo che in linea massima, quando era comunque un grandangolare, e la maggior parte di queste macchinette fotografiche magari con un'ottica fissa erano grandangolari, diciamo il problema era relativo, però se tu stai a fare una foto magari più vicina, più dettagliata, ovviamente ti domandavi come mai nello sviluppo le persone stavano tutte spostate da una parte o addirittura alcune anche tagliate, insomma, no? Le però... famose teste tagliate, le famose teste tagliate, esatto. Comunque, andando un po' avanti, diciamo che successivamente, e questo poi magari non credo ne parleremo mai in questa trasmissione, c'è cioè poi la rivoluzione del digitale che segnerà proprio un solco netto tra questi due mondi per ragioni pratiche. Quindi ritorniamo al, in questo caso alla cinepresa, diciamo al cine riprendere, diciamo così, quindi a quella parte legata a tutte quelle scene in movimento che facciano parte della nostra vita, che potevano essere compleanni, potevano essere la gita scolastica, poteva essere qualsiasi altra cosa, e queste la maggior parte delle persone comuni usavano delle pellicole 8 mm o super 8 mm che erano un'estensione, diciamo, della pellicola 8 mm standard, che oggi, se vogliamo fare un raffronto sui sensori digitali di oggi, potrebbe essere un sensore da un pollice, diciamo così, cioè ecco un sensore molto più piccolo rispetto a quello che è ovviamente il full frame, che è il 35 mm, che nella pellicola infatti è 35 mm, però nella pellicola c'era questa suddivisione, l'8 mm che era ovviamente quello popolare, il 16 mm che era già abbastanza professionale, 35 mm che veniva utilizzato solo ed esclusivamente in ambito cinematografico per ovvie ragioni anche di costo oltre che di qualità, insomma, no? Però comunque la pellicola Super 8 ha portato, diciamo, a una maggiore raccolta più massiva, diciamo, dei nostri ricordi, anche se con delle limitazioni. Perché delle limitazioni? Perché le cineprese che utilizziamo tutti, sia quelle sonore che quelle mute, perché sapete che c'erano proprio, originariamente le prime cineprese erano mute, poi alcune invece c'erano anche il sonoro, il microfono e via dicendo, e questo poi si distingueva anche della presenza della banda magnetica sul lato della pellicola, che era in grado di poter registrare appunto il suono o no. Che succedeva? Succedeva che quando tu andavi a comprare la pellicola, ovviamente per l'evento, la pellicola era venduta in cartucce che tu inserivi dentro la cinepresa. Dentro questa piccola cartuccia c'era una bobina che ovviamente girava con la pellicola e si impressionava. Però queste cartucce erano piccole, cioè fondamentalmente una cartuccia, io oggettivamente adesso non mi ricordo né i costi però metti l'ipotesi che comunque una cartuccia costava abbastanza, e saranno stati 3 minuti e mezzo, 4 minuti di filmato fondamentalmente. Infatti questa cosa voi la vedete, se vi dovesse mai capitare di vedere dei filmati 8 mm da parte fatti da parenti, amici o quello che è, vedete sempre delle sequenze molto veloci, degli stacchi di camera molto veloci, ta ta ta ta ta, ma non perché la gente ci avesse il ritmo nel sangue, ma proprio perché c'era questa cosa che avevi il terrore di finire la pellicola in quel caso, no? E quindi a meno che non ci avevi qualche soldo in più e te ne compravi una decina per l'evento, e lì insomma andavi più tranquillo. C'è anche da ricordare che la maggior parte dell'uso standard della pellicola 8 mm e super 8 mm era a 12 fotogrammi al secondo, oltre la qualità che di per sé non era particolarmente eccelsa, insomma, lo vediamo, insomma, la definizione dell'8 mm super 8 mm è relativa, ma era anche a 12 fotogrammi al secondo, che è la metà esatta del 24 fotogrammi al secondo, che è l'uso cinematografico. Questo perché? Perché anche in quel modo si risparmiava, cioè nel senso era comunque un modo per temporizzare diversamente lo scorrere della pellicola e quindi consumarne il meno possibile, insomma. E questo, anche questa è una cosa che, se vi capita, lo vedete, perché le immagini risultano sempre molto più scattose, diciamo così, rispetto a quello che è la fluidità del movimento di un 24 mm, insomma. E io so se vi ricordate questa cosa delle cartucce, che le cartucce duravano poco e costavano un sacco, insomma, se ve lo ricordate. Sì, io ero troppo piccolo, mi ricordo niente di quello. I miei ricordi sono già col magnetico sul video. Io ho visto sicuramente qualcuno che l'utilizzava, e posso immaginarmi, adesso che hai raccontato tutta questa storia, che quando schiacciavi il pulsante sentivi trrrr, sì, e ti veniva l'ansia. Erano 10.000 lire ogni volta che schiacciavi il bottone. Esatto. E allora andavi calmo. Allora, le grosse limitazioni erano i tempi, cioè i tempi erano importanti perché comunque la cartuccia era quella e quindi ne dovevi comprare tante. Ogni volta, come diceva, che scattavi, tenevi premuto, sentivi il meccanismo che andava avanti e sapevi che erano soldi che partivano. I tempi di sviluppo, perché chiaramente una cosa che secondo me un ragazzo di questa generazione non può concepire, cioè proprio per me gli deve essere proprio alieno come concetto, è il fatto che tu questo materiale, quando l'avevi prodotto, lo levavi dalla cinepresa, lo portavi al fotografo e il fotografo te lo restituiva dopo almeno 15 giorni, almeno 15 giorni, ma a volte anche di più, perché molti studi mandavano questa roba direttamente alla Kodak in Germania, cioè per esempio noi che prendevamo le pellicole Kodak, che erano comunque le più comuni, cioè io non so neanche se ci stavano anche altri tipo Fuji o cose del genere, però in linea massima comunque quelli che compravi erano della Kodak e andavano direttamente in Germania, poi dopo piano piano sono arrivati degli studi di sviluppo anche in Italia e via dicendo, e quindi tu ogni tanto passavi dal fotografo, e questa è un'altra cosa che secondo me è sparita, che però fa costume tutto sommato, andavi dal fotografo e gli dicevi che è arrivato il filmino, no? Ancora non è arrivato, e bestemmia insomma, perché poi questa era la stessa cosa per le fotografie. Per le fotografie, esatto, infatti dopo ci arrivavamo. Il montaggio in camera. Il montaggio in camera è una tecnica che si usava anche nel primo video analogico, ossia quando tu facevi le riprese già le facevi in funzione di come la sequenza doveva essere rispettata, perché chiaramente a differenza del digitale la pellicola è un flusso continuo e difficilmente c'erano persone che potevano avere gli strumenti adatti per fare taglia, copia, incolla. Era manuale, no? Ed era manuale. Sì, io per esempio, mio padre aveva la moviola a casa per ragioni sconosciute, ma io con la moviola ci ho passato ore e ore e ore delle mie giornate a prendere i pezzi di pellicola, tagliarli e poi rincollarli, perché c'era comunque lo strumentino per riagganciarli con uno scotch speciale molto sottile, e io facevo sti lavori di montaggio così a cazzo di cane. Poi alla fine però ecco, quasi nessuno aveva questi strumenti, quindi tu quando se eri abbastanza abile, quando facevi le riprese in maniera tale che quando arrivava la pellicola la mettevi sul proiettore, te la guardavi così com'era e arrivederci, grazie insomma. Però questa è una cosa che è andata sparendo completamente questa concezione del modo di fare le cose, perché oggi sai che tu riprendi tutto indiscriminatamente e senza limiti di tempo, perché poi te vai a selezionare dopo le cose che vuoi fare insomma. Ma anche quello che hai raccontato tu comunque è una cosa, sì, leva il cursore però, leva il cursore Davide, che non vi vedo il tuo nome appoggia sulla scritta, leva il tuo cursore, grazie. Ok, dicevo, anche quello che hai raccontato tu comunque secondo me è già un po' sopra la media, parlare di montaggio di camera, montaggio di pellicola, stiamo già andando, io il massimo che ho visto sono delle riprese ignobili di tremolanti sempre di bambini che corrono, poi che mangiano la torta, che insomma, esatto. Adesso dei compleanni così, ma c'è di montaggio analogico, no però ci ho detto il montaggio in camera, cioè per chi era appassionato, quindi io conoscevo gente che conosceva la cinepresa, gli piaceva e già si immaginava, indirizzava anche un po' le persone, quindi diciamo che quello che rimaneva sulla pellicola era la sequenza di come poi sarebbe andato a vedere le cose, quindi cercava di dargli un senso. Tra l'altro Pier G ci dice che quando no, me lo so perso, perché prima stava dicendo una cosa sul fatto della proiezione, si ricorda che poche volte gli è capitato di guardare i film con i suoi cugini, la procedura per la visione, montare il telo bianco, infilare la bobina nella cinepresa, che non era una cinepresa ma era il proiettore, chiudere tutto, insomma con tutti i bambini che s'agitavano col buio e roba del genere, i genitori che bestemmiavano, sì, quello era un po' la procedura. Ma in realtà con i videoproiettori io sta cosa la faccio ancora oggi, c'ho il telo, tiro fuori il telo, spengo le luci e faccio, cioè in realtà è un po' l'aver ricomprato un videoproiettore per me è un po' riportarmi all'epoca in cui facevamo queste cose. Tra l'altro con i miei cugini noi avevamo il proiettore che era anche sonoro e poteva anche registrare con il microfono, e quindi noi mentre vedevamo il cartone animato lo doppiavamo, praticamente ci divertiamo a fare queste cose qua, che la poi Picconi. Io avevo il Mupi senza audio ovviamente, come tutti. Sì, beh, più o meno. Sulla proiezione chiaramente anch'io ho avuto il periodo in cui sempre mio padre, sai, che si presenta con questo magico oggetto e dice: stasera vediamo un film di Zorro. Come? Dove? Allora tira fuori sto proiettore, tira fuori tutte le robe, ci si mette lì e abbiamo avuto tipo quei 10 film che avremmo visto 100.000 volte, certo. Cartoni animati, film eccetera, Zorro. Che poi molti erano mozzati, perché voi dovete capire che queste certo. A parte le pellicole che avevamo noi, che facevamo noi, né i negozianti, quindi dai fotografi, si potevano comprare i film in Super 8, che però ovviamente per ragioni anche pratiche, per non avere bobine gigantesche che ovviamente non sarebbero state supportate dal proiettore, che comunque aveva dei limiti anche a livello di portata, e alla fine erano dei film che erano tutti tagliati e spesso erano pure muti. 12 fotogrammi anziché 24. A parte quello dei 12 fotogrammi, c'era anche il fatto che comunque proprio i film, c'erano proprio delle scene del film, c'era tutto il film, sì, sì. Tanto non importava, tu stavi lì, era figa la cosa in sé, capito? Quindi ma cacchio, era come dire, non lo so come dire, andiamo al cinema ma siamo in casa, perché comunque ricordiamoci che all'epoca andare al cinema era andare al cinema, cioè era una cosa, era una festa, era una cosa, ed era anche abbastanza caro. Io per esempio ero molto fortunato dal punto di vista proiezione, perché mio papà lavorava in dogana e io ho avuto veramente decine di cartoni animati, infatti Braccobaldo, me ne ricordo una valanga con grandissima simpatia. Che e relazione c'è, scusa, ancora... tra la dogana e avere tanti video? Perché vengono importati? Li sequestrava. Esatto, li sequestrava, no, e li portava a casa. No, erano gli importatori, perché erano molto legati per la parte di importazione. Bisognava fare i favori al doganiere. Bisognava fare i favori, e quindi ne ho visti una valanga di questi cosi che erano molto divertenti. Ricordo che all'epoca, quando ero piccolino, insomma, il relativo colore ancora non c'era, e quindi era veramente qualcosa quasi di magico vedere. Assolutamente vero. Ricordiamoci che la TV a colori in Italia è arrivata tardissimo, perché la TV a colori l'abbiamo avuta nel 78, che è veramente gli ultimi del mondo praticamente. Negli anni 70 si vedevano le pellicole a casa a colori ed era, come dire, fantascienza, quasi fantascienza, considerando che l'alternativa era il cinema, che era un'istituzione, ecco. E comunque vabbè, mio padre, appunto, che hai ricordato, tu non sai perché tuo padre aveva la moviola. Io in questo momento non so perché mio padre avesse tutti gli attrezzi per tagliare invece i film, e non faceva riprese, non faceva video o filmini, però aveva tutti gli attrezzi. Sequestrate pure lui. A volte si rompeva, mi ricordo. Forse perché si rompevano, non lo so. Aveva l'attrezzino che tirava giù le due palettine, si mettevano dentro i due pezzettini, c'era lo scoccettino, aveva tutti i dentini per tenerlo allineato. Esatto. C'aveva sto coso, però forse perché si rompeva. No, quello te lo davano insieme alla cinepresa, proprio perché si rompeva spesso al proiettore. Sì, al proiettore, sì, scusa. Ah, okay, allora diciamo che con la tensione, col movimento, spesso e volentieri queste pellicole si spezzavano, sì. Quindi poteva capitare, ed era un modo per riappicciare, insomma, diciamo, però era abbastanza. Succedeva anche al cinema, non so se vi ricordate. Sì, al cinema, a un certo punto. Sì, vabbè, diciamo, era un po' più raro, però insomma. Chi poi si ricorda al cinema che si fumava, quello, si vedeva il fumo quello, davanti sì. all'immagine. Io guarda, ragazzi, mi ricorderò sempre, l'ho già raccontato, mi sa, in un'altra puntata, questa scena del cinema con la scritta "vietato fumare" gigantesca, fatta con una diapositiva a buchettini, quindi la scritta era fatta con i buchettini, e e nel flusso di luce dei buchettini si vede tutto il fumo che saliva. Che era una cosa incredibile. Cioè, basta vedere la televisione, quando si vedono immagini di repertorio televisivo degli anni 70, fumavano tutti. Presentatori mentre presentavano le trasmissioni, mentre facevano anche nei film, vedi, che comunque facevano interrogatori, fumavano dentro, fuori, nell'aeroplano. Regà, se fumavano in aereo. Io quando sono andato in Nuova Zelanda nell'87 c'era ancora la zona fumatori e non fumatori. E te parlo della British Airways, non è che sto parlando dell'Alitalia, insomma. Comunque, questa è, secondo me dobbiamo farci una puntata sul fumo. Sì, perché quello è un altro fenomeno legato al costume all'epoca, che ha ragione Roberto. Comunque vabbè, come abbiamo detto, poi c'era la proiezione era il momento anche più eccitante, no? Perché comunque era il momento in cui vedevi quello che avevi fatto, lo condividevi con gli altri, ci si rideva e c'era questa sensazione della proiezione della cosa cinematografica. Poi tra l'altro il discorso della proiezione è legato anche a come diceva anche Virgino sotto, dice no, perché poi c'era quello che si sedeva sempre all'ultimo e doveva andare al bagno e quindi si incazzavano tutti perché bisogna accendere la luce, e insomma alla fine comunque era anche questo un fenomeno un po' di costume, insomma, diciamo che dell'epoca, che era questo di ritrovarsi praticamente tutti quanti insieme e vedere dei ricordi che la maggior parte delle volte duravano un decimo di quello che tu ti ricordavi, no? Tu pensavi di aver fatto riprese per tutto il giorno, invece poi alla fine avevi fatto, sempre per le ovvie ragioni, avevi fatto 5 minuti dei film, era tutto veloce, i ragazzi che correvano, la cinepresa che si muoveva, perché non è che c'erano stabilizzatori o cose del genere, insomma, soprattutto quando zoomavi, no? Perché c'era questa cosa che tu zoomavi, e considerate che anche lì hanno ottiche, a meno che non c'avete delle cineprese particolari, ottica fissa magari con lo zoom, ottiche già buie di loro, no? Quindi non c'era profondità di campo, non c'era niente. E mi ricordo che alla fine, se non c'avevi il faretto negli interni e qualcuno ce l'aveva, io ovviamente mio padre ce l'aveva, io ti ho detto, cioè, mio padre c'aveva tutta questa strumentazione, poi ci avesse mai fatto qualcosa, insomma. E l'hai fatto tu, dai. Ho fatto io, esatto. Sì, ma io infatti devo dire, sta cosa non... Comunque, il fatto della proiezione, poi ci torniamo dopo, perché giustamente poi Carlo ci ha anche ricordato un fenomeno, insomma, che secondo me poi, diciamo, si collega... C'è un fenomeno, come posso dire, transitorio tra il cinema, cioè le cineprese e poi la fotografia, no? Che era quella ovviamente delle diapositive, no? Giusto? Le diapositive, sì. La diapositiva era comunque un... Che però poi la diapositiva rispetto al 35 mm, poi magari ci arriviamo, perché pure... avete ricordato poi delle cose, no? Che so particolari, perché magari non tutti sanno. La diapositiva era più bella dell'8 mm, perché chiaramente era fatta con macchine fotografiche un po' più serie, spesso si facevano anche con dei criteri, con delle pellicole specifiche per fare quel tipo di cose. Quindi la diapositiva era degli appassionati di fotografia. Esatto, cioè, esatto. Si partiva da questo, esatto, fatto. Cioè, e la qualità... gente normale come me, i cazzoni facevano le foto. Quindi basta. Sì, sì, no, la diapositiva poi dovevi essere proprio un appassionato. Facevano le diapositive. La diapositiva era bella, era bella sia visivamente che dal punto di vista cromatico. Cioè, quella sembravano veramente dei fotogrammi. Era equivalente di due coglioni, però comunque. Allora, diciamo che dalla diapositiva in poi è nata la cosa del due coglioni quando ti invitavano a casa, che sono tornati, bravo, dall'Africa in generale. Ma questo poi dopo si è trasformato su tutto, cioè anche sul filmino dopo, alla fine. Però ecco, sta cosa, diciamo, siamo tornati all'Africa, venite, facciamo vedere le diapositive. Eppure io ci andavo sempre, perché ero proprio troppo appassionato, mi piaceva, capito? E la cosa bella di diapositiva, perché si mangiava di solito, si mangiava, beh, certo, giustamente. Però la cosa bella è che la diapositiva, oltre ad essere bella da vedere con una bella proiezione, alla fine c'erano due modalità: quella classica, cioè la fotografia, quello che ti raccontava, perché in questo punto, e ci metteva 30 anni, io non vedevo l'ora che passava la diapositiva dopo, perché io volevo vedere le immagini, non volevo sentire le cazzate, non me ne fregava niente. E poi c'era la diapositiva, cioè c'erano quell'invenzione del demonio, che secondo me è stata proprio l'invenzione del demonio, la diapositiva sincronizzata con l'audio, cioè dove tu praticamente registravi la tua traccia audio, dove c'era la musica e la tua voce, quindi tu facevi questo storytelling sulle fotografie e dicevi PowerPoint. Sì, bravo, sì. Che poi dicevi al proiettore quando andare alla diapositiva successiva. E sta cosa era il demonio, era proprio il male, cioè. È automatizzato il processo, che a volte era che poi ogni volta che lo facevi, perché lo facevi vedere all'amico A, poi all'amico B, poi all'amico C, era fatto in diretta, quindi era sempre diverso. E qui sai che quando eravamo al mare, qui c'era il sole, poi l'altra volta lo racconti in modo diverso. Se tu invece lo registri, siccome poi diventa una rottura di coglioni anche per chi deve far vedere video le diapositive, non solo per chi se le deve assorbire, perché la prima volta sei eccitato, vuoi far vedere la cosa, la seconda cominci già a esserti rotto un po' i maroni, la terza, la quarta dici non ce la faccio più, e allora sintetizzavi, no? Allora c'era invece quello furbo che diceva: io lo registro una volta, sincronizzo col bottone, perché c'era un automatismo molto semplice, registravi su un registratore stereo, su un canale registravi un segnale che automatizzava lo scatto del lo cambio di diapositiva, e sull'altro il tuo commento sonoro. E allora tu registravi questa cassettina, c'era il proiettore apposta che aveva l'ingresso, niente di che, mettevi in play, ecco, guardate. E tu dici, ah. Per però, mia fortuna questo non l'ho mai visto, per mia fortuna io l'ho visto ancora di cosa dal vivo, nemmeno io. Io l'ho visto, però la mia era una cosa un po' diversa. Allora io il mio rapporto con le diapositive è stato perché sono andato una volta in una fiera che non esiste più, ma che per i fotografi, per chi era appassionato di fotografia, era veramente, ci sono capitato per lavoro, ed era la Fotokina in Germania. Bella, esiste ancora? Esiste ancora, però negli anni in cui c'era la fotografia, le diapositive, quelle cose lì, era una fiera di quelle che aveva un senso. Adesso è tutta elettronica, sarà equivalente, però all'epoca era veramente una cosa bella. Io sono andato per lavoro lì, perché avevo fatto un lavoro e c'era uno stand di una persona per la quale aveva fatto il lavoro, ed ero lì nello stand, e intanto me la sono vista, no? Però non ero un grande appassionato, sicché sono capitato in uno stand dove facevano vedere la proiezione 3D. E l'ho guardato, ero lì che guardavo, avevano tutti gli apparecchi, le macchine fotografiche 3D, avevano il proiettore, avevano tutto, e ho cercato di capire come funzionava. A tale proposito poi metteremo un link da qualche parte, ho fatto anche un episodio di Survival Hacking su questo, però ho visto come hanno fatto, ho capito come hanno fatto, e ho visto che si faceva con le diapositive. Bastava fare due scatti con o anche una sola macchina fotografica o con una doppia, facevi le due diapositive e poi facilmente con due diapositive riuscivi a fare una proiezione tridimensionale, mettendo su due proiettori le due diapositive destra e sinistra, con un polarizzatore davanti polarizzato in verso rispetto all'altro e degli occhiali polarizzati, quindi non più quelli verdi e gialli, verdi e rossi, che comunque falsavano tutti i colori, era bruttissimo. Infatti quando ho visto il demo lì ero rimasto a bocca aperta, perché vedevo le immagini 3D a colori belle, perché c'erano gli occhiali polarizzati, e lì ho capito come fare, e allora ho cominciato a fare le diapositive per quel motivo, e mi sono riuscito, ho tantissime diapositive, veramente migliaia di diapositive 3D, dove le puoi vedere o con un visore binoculare, dove infili le due diapositive dentro e poi lo guardi, certo, con gli occhi, tipo come si chiama quell'affare che aveva dentro i dischettini, la ruota, sì, è chiaro, vabbè, solo che quello ne vedi una alla volta e metti le due diapositive, si vede bene, perfetto. Se lì non c'è neanche il polarizzatore, vedi proprio le diapositive nella loro risoluzione perfetta dentro nel visore, bellissimo. È come mettere l'Oculus Quest adesso. Sì, più o meno, esatto. Solo che l'ho fatto negli anni, lì erano gli anni 80, comunque, e lì ho fatto molte diapositive, lì ho fatto delle proiezioni, però lì c'era, sai, anche lo stupore del 3D, che sicuramente dava, perché tu mettavi gli occhiali a tutti, era lì 3 o 4, davi 3 o 4 occhialini, facevi la tua proiezione sincronizzata con due proiettori, il commento audio e tutto, e la gente usciva con la bocca aperta. Ed io ho fatto anche con l'ictus, però sì, un pochino sì, diciamo che era meno il livello due palle scendeva, perché c'era meno stupore del 3D, sì, c'era lo stupore. Poi comunque avevo anche dei buoni prodotti, perché ho delle foto di New York quando ancora c'erano le torri, fatte in 3D, me le guardo ancora adesso, sono bella roba, e dici me coglioni. Esatto. E comunque vabbè, effettivamente le diapositive avevano anche una qualità, effettivamente, anche se in quel periodo già le fotografie di carta su Ciba, Chrome, roba così, erano veramente bellissime. Roberto, tu con le proiezioni delle diapositive come la cavavi? No, le facevamo anche noi, ma ti ripeto, io non sono mai stato particolarmente attratto dalla fotografia, come posso dire, familiare o personale. È sempre una cosa che ho odiato, quando cercavano di acchiapparmi per farmi vedere l'album di famiglia, svicolavo. Però mi piace molto la fotografia come arte, questa è una cosa diversa, nel senso che riconosco assolutamente a questo mezzo la possibilità a volte di catturare un momento in una maniera diversa, anche più emozionante, magari anche di essere stato lì. Mi è capitato di vedere delle fotografie di posti o in altri modi che davvero riescono a trasmetterti un'emozione superiore a quella che magari puoi avere essendo stato sul posto, e questa però è una forma d'arte più che altro, non certo una capacità. Però ti ripeto, per la parte nostra familiare così non sono mai stato attirato da queste cose. Qualche volta mi hanno catturato, ammetto, e quindi anch'io mi sono dovuto sorbire. Qualcosa t'hanno anche intervistato qualche volta. Può darsi. No, ma vabbè, certo, capisco che magari non è la puntata per te questa, però dico, diciamo, che è capitato, vabbè, no? Cioè, il tizio, cioè, no, che ti dice: oh, ragazzi, sono tornato all'Africa, venite a vedere le diapositive. Come no? No, sì. È capitato, le visite ai parenti, tutti quanti che... Io ancora adesso mi chiedo, perché io ero schifato e cercavo di fuggire, mi sono sempre chiesto se tutti gli altri fingevano interesse, sì, o se davvero gliene fregava qualcosa. No, io temo che fingessero tutti interesse, ma in realtà non fregasse nulla a nessuno. Però no, io l'unico caso in cui mi interessava era quando uno voleva farmi vedere, che ne so, un paese dove avevo intenzione di andare. Allora mi interessava andare a vedere, la guardavo con un certo interesse, perché sai, all'epoca non c'era internet, le cose le vedevi o con le diapositive di qualcun altro o su qualche giornale, su qualche rivista, non è che... Allora le guardavo per capire come ha fatto, dove è andato, le guardavo con uno spirito più immaginando di essere io lì, o di capire com'era il posto dove probabilmente sarei andato successivamente, e allora le guardavo. Chiaro che quando ti fanno vedere il compleanno di mio figlio, ecco, la cresima di mia nipote, la cugina, la nuova piscina, vabbè, lì era un po' triste. Poi erano tutte sconfusionate, cioè iniziavi ed era ok, questa è la mia cresima, dopo quattro diapositive, ah, qua siamo a Riccione, è vero, sì. Qua siamo a New York, sì, qua siamo a New York, vedete, questa è la spiaggia, questa no, questa no, questa è vero, è vero, anche quello succedeva, sì, assolutamente. E vabbè, purtroppo cioè, nel senso, però a me mi manca un po' tutta sta cosa. Ah, scusa, a me no, grazie. No, grazie. Scusa, ma poi anche le casistiche, quelle dove allora vediamo la roba e poi dopo per qualche motivo sono in disordine e ci si ferma, no? Allora aspettate un attimo che rimetto a posto, spegne tutto, tira fuori le attrezzature e perdi mezz'ora lì. Poi arriva, ah no, ma è ancora in disordine, aspetta che la metto a posto, no, dobbiamo vederla nell'ordine giusto. Io sai come faccio per ricordare? Allora, invece di... Sì, vabbè, le foto le faccio anch'io, ma tanto poi non le guardo, quindi è una cosa automatica. Quando vado in posti, soprattutto quando mi fermo un po', compro sempre un libro sulla storia di quel posto, e se riesco a trovarla, una stampa antica di quel posto. Sì, capito, Roberto, ma tu non è che inviti la gente per fargli vedere il libro? No, ma a me io non invito nessuno. Appunto, ma lui lo fa per lui, giustamente. No, esatto, c'è sta anche per te, va bene, vabbè, okay, così come io facevo per me. L'altro, però. No, però vabbè, interessante invece anche questo. Continua, vabbè, non sta diretta. No, ma anche perché se io invito qualcuno per fargli vedere le foto di almeno quelli che conosco io, sono convinto che o mi picchiano o sì, fanno finta di, esatto, di essere interessati, in realtà gliene può fregare di meno, non è? Per cui io non li sottopongo a questa tortura. Ci sono dei ricordi che voglio tenere, cerco di tenerli in un modo diverso, insomma. Beh, sì. Non so manco se a caso li avrò, perché li tiene mia madre, ma non so manco dove, che fine hanno fatto i miei album di fotografie, boh. Invece Davide sa esattamente tutto dov'è tutto in qualsiasi momento. Perché cosa ha fatto Davide, l'unico uomo al mondo che l'ha fatto? Io ho ereditato, ho perso i genitori un po' di anni fa, e quando mi ho dovuto liberare la casa mi sono preso tutto il materiale esistente fotografico che avevano e mi sono messo lì e ho digitalizzato tutto, negativi, positivi, diapositive. Digitalizzato e catalogato tutto, che è importante. Catalogato e riparato. E anche in quadruple backup. L'unico, sì, al mondo proprio. Ecco, a tale proposito, prima ne parlava Carlo, le famose foto istantanee, Sì, io, erano Polaroid che erano tanto belle, tanto di moda, tanto anche i miei genitori hanno avuto tutte le varie Polaroid esistenti, sia le prime, quelle che tiravi fuori la foto e poi dovevi attendere e scollare il pezzettino, che era la prima versione, e poi quella ovviamente automatica che ci usciva già, che si stava sviluppando mentre usciva. Sì, perché c'erano anche quelle che dovevi staccare. Ecco, quelle, tutte quelle che ho digitalizzato, ho dovuto veramente fare un lavoro di ricostruzione dei colori, proprio, cioè non ce n'è una che... Non era quello il loro scopo, fondamentalmente. Comunque... riprendiamo un attimo sto cammino a questo punto, perché arriviamo proprio al discorso della fotografia, perché sebbene il cammino è abbastanza parallelo con la pellicola, sempre pellicola era fondamentalmente, e nell'ambiente fotografico diciamo ci sono più diversificazioni, proprio perché comunque era una cosa più alla portata e quindi aveva anche maggiore mercato, insomma, perché noi... C'è da dire una cosa però, Simone, che si allaccia un po', perché tu hai vissuto una cosa strana, perché c'avevi tutte queste pellicole a casa, facevi il Super 8, c'avevi la moviola, ma almeno per quella che è la mia esperienza e per quelli che conosco io, in realtà il periodo del Super 8 a colori con l'audio è durato pochissimo, perché poi è stato completamente soppiantato dal magnetico, al contrario della fotografia. Quindi la fotografia su pellicola è durata molto, ma molto di più del video. Beh sì, ma infatti è quello che stavo dicendo. Cioè, nel senso che nell'ambito della pellicola, cioè quindi dell'uso della pellicola in ambito fotografico, quindi in ambito fotografico in generale, c'è molta più diversificazione, cioè c'è tutta una sorta di evoluzione che è andata avanti, proprio perché comunque l'uso della fotografia, a parte che era molto più diffuso, e poi è andato avanti per tantissimo tempo, fino a che non sono arrivate determinate trasformazioni, in particolare il digitale, no? Perché noi ricordiamo che, a parte rarissime occasioni o cose, prototipi strani o roba del genere, comunque la pellicola che tu trovavi era sempre universale, era sempre il 35 mm che avresti usato, diciamo, nella reflex, così come avresti potuto utilizzare in altri dispositivi che facevano un lavoro diverso, a parte meccanicamente come funzionava il meccanismo di impressione. C'erano molte macchine fotografiche nelle quali tu mettevi la pellicola 35 mm e quella pellicola 35 mm diventavano 72 foto, 120 foto, perché praticamente fotografava in porzioni del fotogramma, no? Quindi tu scattavi, in realtà non aveva preso tutto il frame, ma ne aveva preso la metà, ad esempio, no? Quindi c'era tutta una serie di diversificazioni, di variazioni, comprese le prime macchine fotografiche automatiche, perché nella cinepresa questa cosa non esisteva, cioè si costruiva una cinepresa che dal punto di vista del diaframma e dell'otturatore aveva, diciamo, un'impostazione standard che impediva, diciamo, che le cose fossero fuori fuoco, perché era tutto messo a fuoco. Le macchine fotografiche, cioè la fotografia, così, questo anche nel cinema sarebbe così, però la fotografia richiede, diciamo, maggiore attenzione, no? Nei tempi di esposizione, nell'uso del diaframma e via dicendo. E c'erano queste prime macchinette fotografiche che erano automatiche, che io ricordo che tu facevi la mezza pressione, il pallino dentro all'obiettivo ti diceva se era troppo buio, se era troppo chiaro, e al massimo queste macchinette fotografiche avevano tre impostazioni, no? Tipo chiaro, normale, buio, cioè, nel senso, sì. E quindi tu facevi queste foto qua, e però erano i primi automatismi, diciamo così, no? In qualche maniera, con una sorta di esposimetro all'interno che ti diceva un po' quello che dovevi fare, no? Proprio per parlare, insomma, di automatismi, di cose proprio semplici da utilizzare, che poi porteranno alla Polaroid, quindi c'è, come dicevamo prima, la fotografia istantanea, che sì, probabilmente dal punto di vista qualitativo, ma soprattutto dal punto di vista del mantenimento della pigmentazione, dei colori e di tutto quanto, faceva cagare, però è vero pure che l'esigenza era quella di fare una cosa e vederla subito, perché anche nella fotografia il discorso era quello che dicevamo prima della cinepresa, no? Cioè tu portavi l'attesa, cioè i rullini al fotografo e se rivedevamo a babbo morto, cioè, e che invece queste qua ti davano l'opportunità, insomma, di avere questa cosa. Vuoi dire, Carlo? Sì, sì, no, no, è vero, però devo, da quello che mi ricordo, la qualità della Polaroid, anche come risoluzione, come definizione della, della foto, era, era veramente pessima rispetto a una foto fatta anche con una macchinetta usa e getta. Ma il problema, vero, il problema è che nel... stava in secondo piano questo, questo dettaglio. Sì, no, all'inizio sì, però devo dire che dopo no, nel senso che io mi ricordo negli anni 70, fine anni 70, primi anni 80, c'è stato un boom delle Polaroid, sono state tanto usate proprio per la novità del fatto che usciva la foto e ce l'avevi, poi ha smesso tutti di colpo di usarle. Beh, diciamo, diciamo che proprio dal punto di vista, dal punto di vista tecnico, tu devi considerare che in quello scatolotto, che era comunque cioè dal punto di vista della dimensione in maniera consistente più grande rispetto alla macchinetta fotografica normale, ma comunque in quello spazio c'era tutto il parco ottico, c'era la pellicola e c'era la camera oscura nella quale veniva sviluppato, diciamo, inizialmente la fotografia, no? E più c'era la parte meccanica che spelleva, cioè, quindi diciamo che a livello di spazi ovviamente non era certo la qualità quella che veniva, cioè era inevitabile, diciamo, che il prodotto fosse... assolutamente d'accordo, era solo per dire che una cosa che non si ricorda, ma io mi ricordo, era che le Polaroid tra... ti dico anche gli anni, saranno tra la fine degli anni 80, primi anni 90, diciamo dal 90 più o meno, dal 90 fino all'avvento del digitale non lo usava più nessuno le Polaroid. Sì, sì, è così, è così, infatti è così, in effetti è... anche perché costavano comunque i rullini della Polaroid, non era... sì, e poi, tra l'altro cioè, alla fine è stata una specie di boom di moda, le hanno usate dagli anni 70 agli anni 80 e poi basta. Beh, era comunque affascinante, cioè, quando, quando l'ho vista la prima volta, infatti, quasi miracolosa, era un trip, era stato il mio regalo della, della Cresi, ma mi sono divertito tantissimo, però devo dire che poi crescendo c'è stato questo, ma questo cambiamento. No, ma infatti poi diciamo che questa esigenza, diciamo, della praticità, della velocità si è concretizzata nelle Polaroid e quindi nelle macchine fotografiche istantanee, ma poi questa cosa, diciamo, un po' lasciato il passo. Infatti diciamo che poi oggi tornano ad essere oggetto di culto quelle originali e sì, c'è un richiamo, diciamo, a lista, e infatti molte, anche le Polaroid stessa addirittura è tornata a riprodurre nuove macchine che la maggior parte sono tra l'altro anche un po' dei fake, perché sono comunque dispositivi digitali con una stampante a sublimazione dentro, quindi cioè alla fine è un po' però ecco, c'erano anche le macchine usa e getta, cioè macchinette usa e getta sono state una gran trovata, no? Cioè tu dovevi andare alla gita e papà mi presti la macchinetta corca, perché insomma giustamente quello diceva la macchinetta fotografica costa tanti soldi, e tu andavi lì, compravi queste due macchinette dove dentro potevi fare, che ne so, 50 foto e se tornavi a casa con le 50 foto. Ma era diventato lo standard poi di quando andavi in vacanza, esatto, di quando andavi anche in viaggio di nozze, io ho usato quelle, cioè, che so, un po' era, per chi non era un appassionato, un esperto eccetera, perché certo c'era sempre il mercato di quelli appassionati che avevano la reflex eccetera, ma la gente normale che doveva fare le foto era diventato lo standard le usa e getta, proprio perché non avevi più paura di dover perdere la macchina fotografica, che te la rubavano, che costava, che si rompeva, prendevi usa e getta, andavi, facevi le foto, poi c'era tornavi. Questa tranquillità di dire cacchio, mi devo ricordare di portare la pellicola, di comprare quella, di portare no, ma al di là c'era anche la questione di praticità, cioè comunque l'oggetto era anche piccolo, cioè nel senso comunque... e poi era facile da usare, guardate ragazzi, io non ero un esperto, non sono mai stato appassionato di fotografia, macchine fotografiche eccetera, ero una persona normale che faceva le foto normali perché andavo in vacanza, certo. Per me già il fatto di quando c'era la macchina fotografica dover prendere il rullino e inserirlo nella macchina fotografica, per me già iniziava a diventare una tragedia, cioè spesso lo facevo fare al fotografo, gli portavi la macchina fotografica e metta dentro. Beh, lì capitava che non si agganciava. Che non si agganciava, non girava, poi facevi le foto, ma stragirando, le starò facendo, non le starò facendo, sono un casino. Sì, perché dovevi agganciare, dovevi girare la rotella e dovevi fare anche il primo scatto a vuoto, quindi tutta una serie di meccanismi che tante volte alcuni non ci pensavano, e quindi tu pensavi di aver fatto le foto e invece magari non le avevi fatte. L'usa e getta, diciamo che risolveva gran parte di questi problemi, e secondo me poi alla fine è un modello riprodotto poi dalle macchine, quelle macchinette, quelle portatili, insomma, diciamo, nell'era digitale, le punta e scatta, insomma, anche dei Sony e via dicendo, che alla fine riproducevano lo stesso concetto, cioè un oggetto che costava poco, quindi alla fine però poi ovviamente il risultato era anche proporzionato, però diciamo che alla fine chi se ne frega, no? Cioè il ricordo, certo. Ed eri contenta così. E un'altra cosa, insomma, sulla quale appunto al di là dei tempi di sviluppo era il fatto, cioè, per esempio Davide prima ha parlato della digitalizzazione, una cosa che noi facevamo è dove conservavamo. Io mi ricordo che quando tu andavi a prendere le fotografie che erano state sviluppate, tra l'altro a volte ti chiamavano, cioè quando è arrivato, allora tu andavi, pagavi, ti davano l'albumino, ti davano le fotografie, il negativo, e poi non so se te lo regalavano, molto spesso te lo regalavano, era questo libricino dove tu mettevi dentro le fotografie e le fotografie erano conservate là dentro, al massimo, esatto. Cioè il libricino quello singolo, al massimo se avevi voglia, ti piaceva, proprio eri un appassionato, comprai proprio l'album fotografico, che tutti ci avevamo, sì. L'album fotografico di famiglia grosso, dove dentro c'era di tutto, ogni tanto si apriva, ti ricordi qui, qui era quando ti sei cagato addosso e via dicendo, insomma, quando mangiavi le tette alla Barbie, cose così, insomma. E quindi alla fine c'era questa, c'era quella colla che non appiccicava niente, con quei fogli di carta velina che si spostavano, questa specie di colla che non appiccicava, sì, diciamo che era queste fogli che erano tipo di quella carta moschicida, solo che molto molto leggera, che era, esatto, sufficiente se tu ci appoggiavi, però se tu smachinavi troppo e vedi, apri chiudi, alla fine dopo un po' insomma andavano. Sì, infatti poi era classico che prendevi l'album vecchio, magari di un tot di anni fa, lo tiravi fuori tutte le foto, cadevano tutte dall'album. Quando l'apri. Poi ci sono usciti gli album che avevano gli angoli, due angolini e basta, trasparenti, dove si infilavi l'angolo. Ah sì, bravo, bravo. Sempre, sì, sì, sì, che poi si rompevano perché erano dei cartoncino, tipo una cosa, esatto, del genere. Però vabbè. La misura della foto non andava mai bene, c'è un casino. Diciamo che c'era anche molto più tempo, ragazzi, di fare tutto. Che brutto. No, anche quello. Anche quello, cioè tu ne mettevi, no, invece era bellissimo, cioè una cosa. Tra l'altro io vorrei ritornare un secondo sulle macchine fotografiche istantanee, in particolare la Polaroid, perché abbiamo detto che ora sono, diciamo, come tutte le cose inerenti agli anni 80, diciamo, vengono molto umidizzate, però era anche vero che in effetti la Polaroid istantanea all'epoca comunque era un fenomeno di costume, per un periodo, sì, sì, breve di tempo è stata un fenomeno, cioè nel senso è stata un'icona anche, no? Proprio la Polaroid, sì, sì. Erano, sì, anche in, sì, fotografie, in poster, cioè le si vedevano. Beh, c'è stato anche Andy Warhol che le ha rese celebri, ma che ha fatto una serie di opere con le Polaroid, Andy Warhol. Grande sperimentatore, insomma, certo. Cioè. No, infatti, ecco, volevo dire, perché cioè, magari se uno dice, vabbè, adesso sono tornate un po' di moda, un po' le squalifiche, in realtà hanno avuto una grande importanza. Schifano, credo, ha fatto, tu che c'hai la galleria, sì, Warhol, Schifano, tanti hanno usato, tanti artisti hanno usato la Polaroid come espressione di arte in quegli anni, ne hanno fatti parecchi. Però beh, come dice giustamente, è stato un fenomeno di costume limitato in quegli anni, per lo stupore di avere questa cosa fantastica, non era mai successa perché il digitale non era ben al di là da venire, sì, sì, certo. Quindi era la cosa fantastica di non dover aspettare la famosa attesa della foto, no? Che tu invece quando facevi la foto normalmente, fotografo, sviluppo, eccetera, sì, sì. Però c'era anche lo sviluppo in un'ora, poi è arrivato, ma quello dopo, verso la fine eravamo arrivati. Infatti, per questo ti dico, dopo si è perso un po', anche perché c'era, quando sono arrivate le usa e getta, in effetti non l'abbiamo detto, c'ha ragione Roberto, c'è stato il famoso one hour foto, sì, sì, che tu prendevi le tue macchine usa e getta, c'era le foto e portavi lì e dal fotografo, e avevano queste mini camere oscure, esatto, eccetera, dove sviluppavano subito le foto, sì, per lo più automatizzate, mettevano automatica, sì, erano automatiche, tu mettevi i negativi dentro, faceva tutto l'epoca fondamentalmente. Ed era già il periodo dei centri commerciali dove tu andavi a fare la spesa, gli mollavi, esatto, l'affare, facevi la spesa, uscivi, tornavi, ma io anche al negozio Kodak sotto casa mia, dove andavo sempre, loro avevano sti macchinari, vedevo proprio, filavano, mettevano dentro i negativi, la macchina faceva da sola, anche perché praticamente bypassava tutta una serie di competenze che, per quanto non fossero così, però insomma, sviluppare una foto richiedeva comunque dei procedimenti dal punto di vista chimico, perché sono magari non immortalati in un sacco di film questa cosa, esatto, futuro, non molti sanno che ovviamente c'era una carta fotosensibile sulla quale veniva proiettato il negativo, magari raccontiamolo così al volo, veniva proiettato il negativo per x secondi in una stanza buia con una sola luce rossa. Come mai luce rossa? La luce rossa perché non andava ad a interferire sul procedimento della carta fotosensibile, esatto, cioè, e comunque un po' di luce ti serviva, no? Quindi era evidentemente l'unica frequenza di luce che non dava particolarmente fastidio. Quindi tu impressionavi per 5 secondi il singolo fotogramma sulla carta fotosensibile, la mettevi dentro a una vasca con acido, ok, e poi la spostavi e la mettevi in un fissante e poi su una terza vasca dove praticamente veniva sciacquata tutta la parte chimica quando oramai il prodotto si era già sviluppato. Ovviamente, e poi la pendevi tipo ad asciugare. La pendevi, esatto, e tutto questo per ogni singola foto di ogni singolo rullino, cioè quindi il tempo di lavoro in effetti era notevole. Poi chiaramente chi lo faceva a livello industriale avrà avuto sicuramente dei sistemi, insomma, però ecco, il fotografo che si sviluppava le sue foto utilizzava questo sistema, che era il sistema più antico ed è il sistema con cui si facevano le cose. La Polaroid tutti questi processi per esempio ce li aveva tutti e tre integrati all'interno della macchinetta, insomma. Infatti quando lui Davide ha ricordato quella che si strappava, che tu dovevi strappare, in realtà quando tu strappavi levavi la parte che faceva il procedimento chimico, ma fondamentalmente rimaneva soltanto poi la foto. Vi ricorderete sicuramente l'odore, cioè nel senso questa è una cosa che l'odore chimico proprio, esatto, brutto. Chi ha avuto modo insomma si ricorderà tutti l'odore. quei sali e quei acidi. Tra l'altro c'erano diversi sali di argento, sì. Comunque tu hai ricordato la camera oscura, però io ho avuto degli amici e anche mio fratello stesso ci ha avuto un momento in cui in casa si è messo e comprato tutti i pezzi, non so dove, come, e si riusciva a sviluppare le foto che erano solo in bianco e nero, ricordo, sì. Però che si potevano fare in casa. Sì, bene. Era molto più facile, diciamo. Diciamo che era sì, era sì, perché comunque c'erano dei procedimenti, penso che era proprio la chimica anche della carta fotosensibile che era diversa, era tutto insomma un lavoro. Io mi ricordo come ti ho detto, io non ero appassionato di fotografia, però mi ricordo quando chiesi finalmente dopo anni cos'erano sti cacchio di ISO e me lo spiegarono, e allora lì ebbi l'illuminazione. Oh, ma fantastico, ma allora io posso fare le foto più belle o più brutte? Allora tu dici luce, ISO, ma dici la cosa sbagliata, perché non erano gli ISO è un termine che viene utilizzato nell'era digitale, erano gli ASA. Gli ASA, hai ragione. ASA, sì, sì, gli ASA. La sensibilità memoria della pellicola. Gli ASA era la sensibilità della pellicola. Gli ISO è la stessa concetto, soltanto che applicato al sensore digitale. Ok, mi ricordo quando me lo spiegarono, io ero eccitatissimo, finalmente avevo capito come mai c'era la pellicola ASA 100 che costava di più della 200 e della 300 e della 400, o il contrario, adesso mi ricordo. No, il contrario, perché più salivi e più la pellicola era sensibile. Infatti sì, là, che poi mi ricordo che mi dissero: guarda che esistono anche le ASA 50, le ASA 10 che servono per fare le foto al buio. E io veramente non ci credo. Sì, sì. Le foto alle stelle, sì. Le foto dei non turni, esatto. era la definizione della pellicola, la sensibilità alla luce, sì. Poi dopo la grana, quella purtroppo era praticamente impossibile da levare, cioè, nel senso, però poi dopo devi essere anche bravo sempre a rispettare i tempi di esposizione, perché quando tu facevi una fotografia notturna al cielo dovevi tenere comunque l'otturatore aperto per x secondi e avere comunque il diaframma tutto aperto, quindi insomma alla fine comunque un minimo di manualità c'era sempre, non è che bastava l'ASA 400 insomma per fare una foto notturna, però diciamo che aiutava, ecco, insomma. Però poi se la usavi di giorno, il problema, il vantaggio del digitale oggi è che tu nello stesso procedimento, nello stesso set fotografico che stai facendo puoi decidere se stare a ISO 100 o ISO 1600. Lì ogni volta avresti dovuto in teoria virtualmente cambiare rullino, quindi se c'avevi un rullino ASA 400 non potevi andare a fare le foto del giorno, quindi quel rullino te lo tenevi nella macchinetta e lo finivi solo quando a meno che non chiudevi tutti i tempi d'esposizione, ma lì dovevi essere sempre uno che stava a fare le fotografie, insomma, ritornando a noi. Ma mi ricordo che tu non potevi aprire la macchina fotografica finché non avevi finito. No, le bruciavi. Quindi, buttavi via tutto, praticamente. Sì, in teoria buttavi solo quella esposta, però in realtà rischio che si esponeva tutto il resto del rullino era abbastanza importante, insomma, quindi cioè, poteva succedere. Vedo però tra il rullino dovevi riavvolgerlo tutto alla fine, esatto, prima di tirarlo fuori. Sì, certo. Assolutamente. Infatti molte macchinette lo facevano in automatico, quando arrivavi all'ultima foto faceva click e poi sì, quelle nuove. Io mi ricordo la mia prima vecchia che dovevi tirare una manovella, la tiravi fuori, usciva la manovellina. Beh, era così per tutti, erano tutte le macchinette più o meno erano così, fino a che non è arrivata la cosa motorizzata. Che poi bisogna vedere, insomma. Comunque volevo dire che Roberto Davide mi ha parlato, mi parla qui di una macchina fotografica parlante. Io non so di che cosa parla. E qui siamo sempre nell'ambito della fantascienza e sempre nell'ambito di. Erano già gli anni '80 e mio padre è arrivato a casa con questa macchina fotografica che si è fatto gabbolare sicuramente dal fotografo quando l'ha vista, come capita a me quando vedo una roba che mi sembra fantascientifica, butto lì subito i soldi e me la porto via. Però probabilmente era una macchina giapponese, se non mi ricordo la marca, forse Minolta, ed era una delle prime macchine fotografiche, forse l'unica anche, che parlava. E praticamente se c'era poca luce, troppa luce, ti diceva usa il flash, diceva proprio, parlava, no? Ma ti insultava anche, oppure era una cosa abbastanza inutile tutto sommato, perché bastava un segnalino visivo, era inutile, però, cioè, però era figo, mi gasavo troppo, senti, parla, vedi, mi dice usa il flash, usa, è qua intelligente. Mi dava delle istruzioni, no? Oppure è finito il rullino, hai ancora una foto, intelligenza artificiale, e parlava inquadra il culo comunque era una macchina che penso sia stata unica nel suo genere, perché era il momento in cui andava di moda molto la sintesi vocale, facevamo parlare di tutto. Sì, mi ricordo c'erano le casse al supermercato, ragazzi, ma ve le ricordate? Le casse al supermercato, parlavo, e quando battevi 100.000 lire. No, c'era sta moda che le cose dovevano parlare, faceva scena, i film ce lo spiegavano, i film in realtà, perché c'erano tutti i film dove c'erano queste cose che parlavano. Allora poi sono cominciati a uscire gli orologi che parlavano, sono le 12:35 minuti. Dopo tre volte che parla ti ha rotto i coglioni, esatto. Non la facevi più parlare, però diciamo c'era sta moda, e è capitata anche in una macchina fotografica che mio padre ha avuto. Ma il racconto più interessante è forse quello che c'è nel punto dopo, no? Dove dico sinteticamente: stavo per morire per una fotografia. Questo ci interessa, sì. E questo è curioso. Allora, era sempre per cresime, comunione, roba del genere, mi hanno regalato una macchina fotografica che era un giocattolo, però, ma che faceva delle foto vere. Perché poi ricordiamo che per fare una fotografia, senza andare troppo nella qualità, si può fare davvero con un giocattolo, era un pezzo di plastica, era una macchina fotografica come forma e tutto, però era una roba della Lego, non lo so, insomma, adesso non so che marca, dove ci infilavi dentro una pellicola, schiacciavi il pulsante, c'era un otturatore e scattava la foto e veniva quella che veniva. E me l'avevano regalata, e mi avevano regalato anche un rullino in bianco e nero, e ho fatto delle foto, le mie prime foto con la mia macchina fotografica, che era un giocattolo però, ed è arrivato il momento in cui sono andato a farle sviluppare anch'io. E poi c'è stato il giorno in cui sono andato a ritirare le foto, era proprio tutta un'attesa, ed era la mia prima volta sia di fotografie, di ritiro, e non vedevo l'ora di vederle. E quando le ho ritirate dal fotografo, che era nel mio paese, le ho cominciate a guardare per strada mentre camminavo, e a un certo punto io ero in mezzo alla strada guardando fotografie, mi è passata una macchina che mi ha schiacciato tutti e due i piedi, un male della Madonna, e mi sono reso conto che ero in mezzo alla strada, stavo attraversando la strada guardando senza le fotografie, senza guardare e non mi ha tirato sotto per un millimetro, perché mi ha schiacciato la punta dei piedi delle scarpe, e ho sentito la macchina che mi è passata sopra, e ho detto se era 3 centimetri più avanti mi prendeva dentro e l'avrebbe tirato sotto. E allora mi sono un attimo, che è la stessa cosa che è capitata ai primi tempi con i cellulari, perché ho avuto ben due amici che sono schiattati perché hanno attraversato la strada col cellulare, vi comunico così per la storia. Vabbè, mi dispiace per loro, però devo dire. Mi dispiace anche per loro, però insomma è capitato e capitava più frequentemente che la gente era distratta. Adesso sono tutti col telefono in mano e penso che la metà degli incidenti, l'80% degli incidenti che vedo dei tamponamenti per strada è perché guardavano il telefonino, secondo me. Comunque, e niente, lì ho rischiato davvero, era la mia prima volta e mi sono cagato in mano proprio. È stata una cosa strana, così è capitato. Cioè, a me è venuta in mente una cosa di cui non abbiamo parlato e che tutti noi abbiamo avuto l'esperienza, che era il selfie prima di chiamarsi selfie. Come si chiamava? Sì, non lo so, però io autoscatto. L'autoscatto, ragazzi, cioè la macchina fotografica avevano questa fantastica funzionalità dell'autoscatto, che era però un casino da usare, perché dovevi mettere questo timer, non sapevi bene i secondi, cioè mettevi i secondi, poi contavi sbagliato, ovviamente dovevi correre, la facevi con gli amici, mettevi la macchina su un muretto sperando di inquadrare giusto, poi correvi indietro e sentivi, poi ha scattato, poi mentre si muovevano tutti scattavano. Questo c'è ancora oggi, comunque esiste ancora l'autoscatto. Però in realtà no, io te devo dire la verità che cioè, con le macchine fotografiche mi ricordo, se la ritrovo prima o poi la faccio vedere, c'è una foto che ho fatto, cioè avevo 17 anni e mi sono fatto proprio un selfie proprio, cioè girando la macchinetta verso me e fotografandomi mentre stavo sulla tazza del cesso. Perché non sai come... Io guardavo la lente mi sembrava più o meno puntata su di me, poi certo andavi a culo, cioè nel senso non è che c'era... Esatto. Però stavo sulla tazza del cesso, io sono fatto sta foto sulla tazza del cesso, bellissimo. E non potevi blare in un posto più serio? No, vabbè, non è che si vede, cioè si capisce che sta sulla tazza del cesso perché dietro sono tutte mattonelle, si vede che sto seduto, quindi si capisce che sto sulla tazza del cesso, però non è che si vede il sotto, capito? Cioè, quindi per esempio Davide qua fa riferimento ai flash a cubetto, quelli usa e getta, quelli io me li ricordo e facevano pure rumore, facevano una botto quasi, mezzo botto, perché era come che si chiamava il materiale dentro, il magnesio, esatto, il potassio, flash, pure il potassio era proprio il flash, perché faceva flash e via e via tutto. Sì, e non costavano neanche poco secondo me, se non ricordo però sono stati i primi, perché erano quelli che costavano che consumavano meno corrente per fare il flash. Si passava mentre il condensatore e poi gli arrivava un innesco, esatto. Scoppiava sincronizzato con l'otturatore, vaffanculo. Esatto. Anche perché comprare un flash vero c'erano i soldi, ragazzi. Sì, il flash vero aveva la sua batteria invece a parte e aveva il tempo di ricarica, mi ricordo. Ecco, una cosa che non è cambiata in 40 anni, la cosa che non è cambiata praticamente in 40 anni è il flash. Il flash alla fine sì, oggi sono più tecnologici, sono sincronizzati, adesso il flash però non ha più il tempo di ricarica, lo usi quante volte vuoi. Sì, però all'epoca usavi il flash, poi dovevi aspettare prima di riusarlo, non potevi riusarlo subito. Quelli professionali che potesse 10 secondi, cioè poi sono arrivate le macchine quelle fotografiche anche usa e getta che avevano il flash sì però lì stiamo già parlando degli anni 90 inoltrati. No, all'inizio dei tempi era lampade stroboscopiche all'Oxenon, invece il formato Kodak Disc non me lo ricordo, devo dire la verità. Io sì me lo ricordo, era come quello delle macchinette, quelle che ha detto prima Davide, che mettevi li vedevi in 3D, com'è che si chiamava? Il formato era lo stesso, però praticamente era una pellicola, facevi le foto. Aspetta che cerco. Sai una cosa che non abbiamo detto, che però è essenziale, gli obiettivi e gli zoom. Lì è una roba da professionisti, io non sapevo un cazzo di quello. No, io nel mio breve periodo di fotografo, che è durato 6 mesi, ho pedato tutto a mio padre, mi sono comprato una valanga di tutti i vari tipi di obiettivi, perché è comunque una cosa molto divertente, che tra l'altro ho usato perché non faccio fotografia, però mi divertivo da ragazzino col telescopio, che è anche un'altra cosa. Pure le fotografie astronomiche sono fighe, però vabbè, questo è un altro tema. Invece sulla chat ci hanno condiviso la macchinetta fotografica di Topolino. è vero. La macchina del Topolino ci però fa. Dice già anni 90, ci verrà giusto per curiosità. Sì, ce l'ho. Viewmaster si chiama, Viewmaster è quello 3D, esatto. Quello 3D a dischetti. Esatto. Quella cosa che aveva fatto alla fine del ciclo delle macchine fotografiche, la pellicola, aveva fatto questa macchina fotografica con dentro questa pellicola fatta a mo' di disco con dentro una quindicina di diapositive che era istantanea, cioè tu potevi anche fare la raffica di foto di un disco di foto di 10 foto, 15 foto in un secondo, proprio trrr, facevano vedere questa roba, le macchine erano molto compatte, sembrava una roba futuristica, però praticamente è morta sul nascere, sì. E si è vista poco, ecco. Ma se tu ci pensi, soprattutto per quelli insomma della nostra età, è folle pensare che Kodak praticamente non esiste più, o perlomeno non esiste per come... No, esiste di nuovo, ma non è più la Kodak vecchia, non è più la fallita, Kodak. È stata ricomprato il marchio, è stata fatta un'altra azienda. Come è capitato spesso e volentieri, poi. Come è capitato in altre situazioni spesso e volentieri. Sempre, certo, tantissime situazioni. Certo. Come curiosità. Perché la Kodak ha perso il treno del digitale. Quando è arrivato il digitale non ci ha creduto, come tante altre aziende. Sì, come la Nokia, come tante altre aziende. Diciamo che questo è stato un po' il destino, cioè perché l'industria tecnologica giapponese è da una parte iperavveniristica e dall'altra si perdono in conservatorismi ma la Kodak assurdi, non è giapponese, è americana. Sicuro? Ma non è solo quello. Allora c'è che hanno perso il treno del digitale, però tenete presente che alcuni marchi addirittura sono così radicati e identificati con una certa cosa, certo, poi che anche se si fossero messi e poi si sono messi a fare il digitale, sì, comunque tardi ormai, certo. Non è la stessa cosa. Per me Kodak è pellicola fotografica ancora adesso, che non la fa più. È effetto così, perché se noi consideriamo comunque l'epoca degli anni 70-80, se proprio dobbiamo identificare le due maggiori produttrici anche dal punto di vista qualitativo di pellicola, erano Kodak e Fuji. Infatti Fuji praticamente ancora oggi le macchinette fotografiche digitali hanno la replica simulativa della banda cromatica praticamente delle pellicole, soprattutto della, oddio adesso non mi viene il nome, ma c'era proprio un modello specifico di pellicola che in effetti aveva proprio una sua connotazione cromatica particolare, che era veramente Cyber bella. No. No, adesso non me. Pure facile, perché in realtà ce l'ho sicuramente a cazzarella sulla punta della lingua, però non mi viene in questo momento. Mentre la cerchi su internet, vi racconto velocemente solo una curiosità. Io abitavo a Cinisello Balsamo. Eterna. Fuji, eterna. Le Fuji Eterna erano insomma una particolare categoria, ma insomma anche le Kodak avevano il loro modello, e anche quelle venivano utilizzate a secondo del tipo di pasta e di colore che tu volevi dare, ma questo in generale insomma per quelli che ovviamente capivano la differenza e comunque cercavano quel tipo di risultato, ecco, questo volevo dire, che poi ancora oggi diciamo sia dal punto di vista della produzione fotografica direttamente in camera che dal punto di vista dei loot che puoi trovare per i software di editing sia fotografico che video, ci sono proprio il richiamo a quelle specifiche pellicole Kodak e Fuji che sono insomma hanno fatto storia insomma da quel punto di vista, ecco, lo dico solo questo. Vai. Okay. Ti stavo dicendo che comunque io abitavo a Cinisello, e a Cinisello c'era la Kodak Italia che era di fronte a casa mia, dall'altra era tutto di fronte strada. A casa tua comunque c'era la Kodak, io cazzo, non c'è stata una puntata dove non c'era qualcosa di fronte a casa e tua. Poi avevo degli amici i quali genitori lavoravano alla Kodak, e poi ormai abitando in un paese dove c'era la Kodak, sai, ti dico, dov'è la pizzeria? È là di fronte alla Kodak, oppure vai alla Kodak poi vai dritto, cioè, era un punto di riferimento. E l'altra cosa invece, che forse avevo già detto, non mi ricordo, che sono stato in Giappone un paio d'anni fa. In Giappone ci sono i grandi magazzini dove vendono tutta l'elettronica, c'è anche il reparto fotografia, che a differenza di quello che ci possiamo trovare in tutto il resto del mondo, là sembra congelato negli anni 80, cioè c'è tutto il bancone con tutte le pellicole, con i frigoriferi, con le macchine fotografiche, usa e getta. Ma c'è un grande ritorno pure dal punto di vista... No, a parte il ritorno, c'è da dire che i giapponesi per la fotografia, cioè mentre, non so, per fare un paragone, qui da noi tutti noi abbiamo tirato un calcio al pallone, in Giappone tutti hanno avuto una macchina fotografica seria con la pellicola per fare le fotografie, perché se vi ricordate da noi il giapponese, anche quando lo disegnavi, se uno faceva la caricatura di un giapponese, c'era la macchina fotografica in mano, sì, sì, è vero. Al collo, è vero, è una loro cultura proprio la macchina fotografica, quindi è la macchina fotografica negli anni 70, negli anni 60. Non è un caso che i tre più importanti produttori di macchine fotografiche alla fine sono giapponesi, anzi, e poi è anche normale che lì trovi ancora tutto, perché chissà quanti lì avranno ancora le macchine fotografiche a pellicola che se le sono tenute. Sembra di tornare in un negozio degli anni 80 che tu vedi tutta questa roba e dici: ma che roba è? Come il reparto hi-fi, che avevo già detto, il reparto hi-fi in Giappone è come i reparti hi-fi che ci ricordiamo negli anni 80, pieno di amplificatori. Comunque ti devo dire la verità: io, se ci avessi spazio, magari, più che tempo, se ci avessi spazio. Comunque a me una camera oscura, ma me la farei. E poi il nuovo ufficio dove noi ci siamo insediati da poco, in effetti era un vecchio laboratorio fotografico, infatti nella sala in fondo dove abbiamo fatto la sala ricreativa c'è ancora la vasca di sviluppo, e per un attimo ci ho pensato, soltanto che poi alla fine comunque purtroppo tua moglie ti ha dissuaso, diciamo, detto, hai tutto il cazzo. esatto. Poi vedi, ha voglia Carlo di dire ma che divertimento era andare in quei grandissimi negozi di hi-fi, di computer, di cose. Ormai sono una tristezza immane. Erano altri tempi. C'erano degli showroom a Roma, ragazzi. Soprattutto dal punto di vista foto discount, me lo ricordo, in Piazza De Angelis a Milano. C'era l'Union Photo Market, che era Union Photo Market spettacolare. Union Photo Market era mica in via quella per andare al Cimitero Maggiore. Solo mi ricordo, vero, perché sono stato diverse volte. Era un posto che, anche se non me ne fregava niente di fotografia, aveva così tanta. Come il BH a New York. Entravi, erano sale e sale di roba, fotogrammi, macchine, cineprese, di tutto. Tutto quello che esisteva sulla terra ce l'avevano. È vero. Un posticino un po' imboscato, ma avevano dentro tutto. Sì. Comunque, ragazzi, visto che poi alla fine si è fatta una certa, ci tenevo a dire che io ci tenevo a fare questa excursus, anche se l'avrei infarcito di tanti aneddoti che comunque hanno fatto parte del mio percorso verso l'amore che ho avuto verso queste cose, ma siccome tante cose le ho già raccontate altrove, alla fine non c'è neanche senso, e poi comunque alla fine già solo così è già venuta fuori un'ora e mezza di puntata. Però sicuramente ritorneremo su questi temi, perché ci sono state delle grandi battaglie negli anni 80, con vincitori meritevoli e tante cose, formati video, insomma, l'analogico prima ancora del digitale. Lì quando andiamo nel magnetico c'è tutta una storia racconta sui formati video, eccetera. Perdiamo una puntata solo per quello. No, ma infatti sarà un tema. Alla fine, comunque, sono cose che fanno parte un po' della nostra storia. Dai, facciamo così. Allora, cominciamo a ipotizzare, insomma, una conclusione della puntata. Diciamo così, che è difficile riuscire a far capire ai più giovani un po' tutta una serie di meccanismi, ma è anche la naturale conseguenza delle cose, come abbiamo sempre detto. È bello ricordarlo, perché comunque, anche se per alcuni di noi è stato impegnativo, alcuni faticoso, a volte noioso, è comunque il simbolo di un'epoca che è stata quella, che aveva i suoi tempi e i suoi modi di sviluppare quello che creava, insomma, e tutto sommato alla fine era bello anche così, no? Nel senso, comunque c'era anche l'attesa, no? Come quando dicevamo che scrivevi alla ragazzina e magari c'avevi l'amica di penna in Germania e sapevi che avresti dovuto aspettare un mese, no? Prima di sapere che cosa pensa di te. Questo è la stessa cosa delle fotografie, dei ricordi, dei filmini che facevi, e vediamo che come sono venuti, che cosa è venuto, ti ricordi quella volta lì, quella cosa lì, e aspettavi, e questo fa parte, insomma, di un'epoca di persone che sapevano aspettare, o dovevano sapere aspettare. Oggi probabilmente ci prenderebbero le biastime già soltanto quando scarichiamo le nostre foto dalle macchine digitali e la SD è particolarmente lenta, già lì ci innervosiamo, insomma. Quindi immaginate che differenza, no, che ci può essere tra aspettare 15 minuti di più piuttosto che un mese, ad esempio, o cose del genere. Detto questo, io invece vi dico, come abbiamo detto all'inizio trasmissione, che Quando Eravamo Futuro è tornata, per salutarvi, è tornata per chiudere questa stagione che è stata bella, ma stiamo già lavorando alle idee per la prossima stagione, perché io ho delle cose che voglio raccontare, così come Carlo, così come Davide e come sicuramente anche Roberto. Le metteremo insomma nel nostro piano editoriale, cominceremo a sviluppare le idee, abbiamo un mese diciamo così di tempo nel quale prendiamo un attimo di respiro, andiamo a chiudere gli altri podcast e poi torniamo come è giusto che sia, insomma Runtime si preparerà per la prossima stagione. Quindi ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, ovviamente vi ricordo che andremo a fare anche il finale di stagione di Archeologia Informatica. No, prima videoludica. Correggimi prima se video, sbaglio, prima videoludica, prima videoludica. Ah, videoludica. Prima videoludica e poi informatica. Vai, e poi informatica, quindi, perfetto. Quindi faremo il finale di stagione di videoludica e poi di informatica. E niente, quindi vi aspetto per queste puntate conclusive. Poi buone vacanze a tutti e ci si risente a settembre. La prima puntata della nuova stagione di Quando Eravamo Futuro sarà mia, ovviamente. Esatto. Di che parleremo? Non si sa ancora. Non ve lo vediamo. Decideremo, sorpresa. Quindi Archeologia Videoludica finale di stagione 14 luglio ore 21:30 e Archeologia Informatica finale di stagione 21 luglio ore 21:30. Segnateli, sono due mercoledì. Insomma, detto questo, ringrazio e saluto anche Davide Gatti. Buona serata a tutti, grazie di essere stati con noi in questo percorso dove abbiamo rivissuto un po' gli anni 70 e 80, ricordandoci un po' cose belle, cose brutte, insomma più cose belle quasi direi. Non le diapositive. Le diapositive no. fanno parte delle cose belle quando le fai, meno belle quando le fai vedere. Però insomma hanno anche loro fascino, la loro bellezza. Esatto. E ti assicuro che oggi hanno ancora il loro fascino perché resistono come colore, resistono come media. Assolutamente. Forse molto più delle foto. E come quindi, pallosità anche tantissimo. È probabilmente che. Va bene. come ho già detto, ricordo lo che. Lo chiuderemo dentro la stanza e faremo vedere tante diapositive a Carlo. Sì, però tutte in confuso, una dietro l'altra, una diversa dall'altra. E poi mi dovete tenere come quello di Arancia Meccanica con gli spilli negli sì, occhi. Sì, sì, va bene. Legato. Ti teniamo con dei circuiti integrati sotto gli occhi. Mettiamo la porchetta sotto al grugno, così almeno quella ti tiene sveglio e sei costretto a vedere comunque. E niente, quindi come dicevo vi ricordo ancora che appunto è ricominciata la nuova stagione di Survival Hacking come podcast, che vi terrà compagnia per tutta l'estate, mentre invece tutti vanno a riposare, lui invece vi terrà compagnia e proseguirà insomma. E niente, poi ci vediamo anche su YouTube come al solito con i vari appuntamenti. Grazie ancora e ci rivediamo a settembre con Quando Eravamo Futuro. Grazie, salutiamo e ringraziamo anche Roberto Tomaiolo. E allora sono io che ringrazio tutti voi, mi sono veramente divertito, grazie come sempre a Simone che mette in piedi l'Ambaradan. Spero di riuscire a registrare in questo weekend la prossima puntata di Delenda Cartago, che sarà su Caccia Ottobre Rosso, quindi questo ve lo posso anticipare. Bel film. Sì, abbiamo detto tutti la stessa cosa. Sì, un altro sommergibile. Finale bellissimo. E dovrei farcela perché già l'ho scritta, ho i contributi audio, se riesco a mettere tutti insieme a registrarla la mando al buon Simone e poi la mette insieme. E quindi niente, grazie ancora a tutti, a quelli che ci hanno ascoltato, ci rivediamo a settembre. Se avete qualche richiesta, magari qualcosa che anche giusto, fatecela, e sicuramente non la faremo, però ci fa piacere. No, la faremo. Come no? Voi scriveteci di cosa volete che noi parleremo e sicuramente non ne parleremo, ma è giusto così, insomma. Grazie a tutti, buonanotte e buona estate. Notte. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ancora